Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Ora dovevo far visita all'amico di Choinitsky, il tenente colonnello Stelmacher del Ministero della Guerra. Il mio trasferimento al 35esimo della territoriale non doveva prendere più tempo dei preparativi per il mio matrimonio. Ero contento di dover compiere quasi contemporaneamente due passi diversi e anche scombussolanti. L'uno, in certo modo, accelerava l'altro. Ambedue mi stordivano, né più né meno, impedendomi comunque anche di giustificare la mia fretta con argomenti persuasivi. In quei momenti non sapevo nient'altro se non, appunto, che tutto deve andare alla svelta. E nemmeno volevo sapere esattamente perché e a quali scopi. Ma profondo in me già stillava, come una pioggia sottile che si percepisce nel sonno, il presentimento che i miei amici Josef Branko e Reisiger stessero chissà dove percorrendo verso occidente le fangose strade maestre della Galizia orientale, inseguiti dai cosacchi. Chissà, forse erano già feriti o morti. E sia. Allora volevo almeno onorare la loro memoria in questo modo, prestando servizio nel loro reggimento. Ero giovane, e anche della guerra noi non sapevamo proprio niente. Com'era facile soggiacere all'idea che a me spettasse il compito di raccontare ai bravi ragazzi del 35esimo aneddoti veri e anche un po' inventati sui loro compagni morti Trotta e Reisiger, perché mai e poi mai ci si dimenticasse di loro. Bravi, poveri contadini prestavano servizio nel 35esimo, furieri dal tedesco burocratico sovrapposto alle loro materne lingue slave, come lo sono i gradi e i risvolti, i galloni giallo-oro sul minuscolo fondo verde scuro. E gli ufficiali non erano i figli viziati della nostra allegra società viennese, bensì figli di artigiani, portalettere, gendarmi e ostie, affettuari e tabaccai. Per me, allora, essere accolto fra loro aveva più o meno lo stesso significato che poteva avere per uno di essi un trasferimento al nono dragone di Choinitsky. Era senza dubbio una di quelle idee che sprezzantemente si definiscono romantiche. Eppure, lungi dal vergognarmene, ancora oggi insisto a dire che questo periodo della mia vita, il periodo delle idee romantiche, mi ha avvicinato alla realtà più delle rare non romantiche che ho dovuto forzatamente impormi. Ma come sono assurde queste definizioni che ci hanno tramandato! Ammettiamole pure. Ebbene, io credo di aver sempre osservato che il cosiddetto uomo realistico se ne sta impenetrabile su questo mondo come un muro di cinta in calcestruzzo, e il cosiddetto romantico è invece come un giardino aperto, in cui la verità entra ed esce a piacimento. Thank you. Dovevo andare dunque dal tenente colonnello Stellmacher. Nella nostra vecchia monarchia, un trasferimento dalle varie armi alla territoriale, anche solo dai cacciatori alla fanteria, era una specie di affare di Stato. Non più difficile, ma più intricato dell'attribuzione di un comando di divisione. Pure esistevano, nel mio mondo scomparso, nella vecchia monarchia appunto, le preziose, meravigliose leggi non scritte, non note, non accessibili, ma ben familiari agli iniziati, più ferree e più eterne di quelle scritte, che al proposito stabilivano che su 100 postulanti solo 7, ben determinati, dovessero vedere opportunamente esauditi i loro desideri, alla svelta e in silenzio. I barbari della giustizia assoluta, lo so, se ne indignano ancora oggi, ci biasimano, ci danno degli aristocratici e degli esteti tuttora, eppure a ogni istante io vedo coi miei occhi come essi, i non aristocratici e antiesteti, abbiano spianato la strada ai barbari dell'ingiustizia ottusa, plebea, loro fratelli. Ma come ho detto, non avevo allora voglia, né agio, di riflettere. Andai da Stellmach dritto per il corridoio dove aspettavano capitani, maggiori, colonnelli, dritto per quella porta su cui era scritto «Vietato l'ingresso». Io, un misero alfiere dei cacciatori. «Servus», disse Stellmacher, che sedeva chino sulle carte, prima ancora di avermi visto. Sapeva benissimo con quanta familiarità si devono salutare le persone che sono passate da un ingresso vietato. Vidi i suoi capelli grigi, ispidi come setole, la fronte giallognola percorsa da mille rughe, i minuscoli occhi infossati che sembravano non avessero palpebre, le guance magre ossute e i grandi mustacchi spioventi tinti di nero un po' alla saracena, in cui Stellmacher sembrava aver riposto tutta la sua vanità, quasi perché essa non lo molestasse più in altro modo, né nella vita privata né nella professione. L'ultima volta l'avevo visto alla pasticceria Demel, alle 5 del pomeriggio, insieme al consigliere Sorgsam della Ballhausplatz. Ancora non avevamo la più pallida idea della guerra. Maggio, il maggio viennese, nuotava nelle piccole coppe oro dal bordo d'argento, si librava sul tavolino, sui sottili bastoncini di cioccolata ripieni, sui pasticcini rose e verdi alla crema che rammentavano strane gemme commestibili. E il consigliere Sorgsam disse nel bel mezzo di quel maggio: «Non ci sarà guerra, signori miei!» Il tenente colonnello Stellmacher alzava ora lo sguardo svagato dalle sue carte. Non vide nemmeno la mia faccia. Notò solo uniforme, dragona, sciabola, abbastanza per ripetere «Servus!» e subito dopo «Siediti un momento!» E infine mi guardò con attenzione. «Che eleganza!» «E quasi quasi non ti riconoscevo!» «Si capisce, in borghese hai l'aria un tantino ramollita!» Ma non era la voce sonora profonda di Stellmacher che io conoscevo da anni. E anche il suo motteggio era forzato. Mai, prima d'ora, era uscita dalla bocca di Stellmacher una parola frivola. Si sarebbe impigliata nei folti e lucidi cespugli dei mustacchi tinti di nero per perdervisi senza suono. Io esposi alla svelta il mio caso. Cercai anche di spiegare perché volevo andare nel 35°. «Ammesso che tu li trovi», disse Stellmacher. «Brutte notizie. Due reggimenti quasi sterminati. Ritirata catastrofica. I nostri signori idioti in capo ci hanno preparato come si deve. Benissimo. Vai pure. Guarda se lo trovi, il tuo 35°. E comprati 2 stellette. Sarai trasferito come sottotenente. Servus. E libertà». Mi allungò la mano al di sopra della scrivania. I suoi occhi chiari, quasi senza palpebre, dei quali non si sarebbe detto che mai soggiacessero a sonno, sopore, stanchezza, mi guardavano distanti, estranei, da una vitrea lontananza, per niente tristi. No, più che tristi, disperati. La sua grande dentatura falsa scintillò doppiamente bianca sotto i mustacchi saraceni. «Scrivimi una cartolina», disse, e si chinò da capo sulle carte. I parroci lavoravano in quei giorni con lo stesso ritmo veloce dei panettieri, dei fabbricanti d'armi, delle direzioni ferroviarie, dei cappellai e sarti militari. Dovevamo sposarci nella chiesa di Döbling, dove era ancora vivo colui che aveva battezzato la mia sposa, e mio suocero era sentimentale come la maggior parte dei fornitori dell'esercito. Il mio regalo fu in realtà il regalo di mia madre. Non mi era neppure passato per la testa che i regali di nozze fossero assolutamente necessari. Quando arrivai per il pranzo, anche le polpette con le prugne me le ero già dimenticate, mia madre era seduta a tavola. Come di consueto le baciai la mano e lei mi baciò sulla fronte. Al domestico detti l'incarico di procurarmi da Urban mostrine verde scuro e stellette da sottotenente. «Sei trasferito?» chiese mia madre. «Sì, mamma, al 35°. Dove sono?» «Nella Galizia orientale. Parti domani?» «Dopodomani». «Domani c'è il matrimonio?» «Sì, mamma». Era uso in casa nostra lodare i cibi mentre si mangiava, anche se erano mal riusciti, e non parlare d'altro. E la lode non doveva essere nemmeno banale, anzi, piuttosto audace e ripescata da lontano. Così dissi, per esempio, che la carne mi ricordava una certa carne che dovevo aver mangiato 6 o 8 anni fa, anche all'ora di martedì, e che la borragine, oggi come allora, si sposava benissimo col bollito. Davanti alle polpette con le prugne, finsi di restare senza parole. «Per favore! Le stesse per quando sarò di ritorno», dissi a Jacques. «Ai suoi ordini, signorino», disse il vecchio. Mia madre si alzò prima ancora del caffè, un gesto insolito. Portò dal suo salottino 2 astucci di marocchino rosso scuro che spesso avevo visto, ammirato, e sul cui contenuto non avevo mai osato fare domande. A dire il vero, mi avevano sempre incuriosito, ma al tempo stesso ero stato anche felice di avere a un passo da me 2 segreti inaccessibili. Ora, finalmente, mi sarebbero stati svelati. L'uno, l'astuccio più piccolo, conteneva il ritratto in smalto di mio padre incorniciato da un sottile filo d'oro. I suoi grandi baffi, i suoi occhi neri, ardenti, quasi fanatici, la pesante cravatta con le pieghe abbondanti e accurate intorno al colletto duro troppo alto, me lo rendevano estraneo. Doveva essere stato così prima della mia nascita. Così era vivo, caro e familiare, per mia madre. Io sono biondo, con gli occhi azzurri. I miei occhi sono sempre stati piuttosto scettici, tristi, riflessivi, mai creduli e fanatici. Ma mia madre disse: «Tu sei proprio come lui. Portati via il ritratto». Ringraziai e lo riposi. Mia madre era una donna intelligente, perspicace. Ora mi fu chiaro che non mi aveva mai guardato bene. Non v'era dubbio che mi amasse di un amore sollecito. Amava il figlio di suo marito, non la sua creatura. Era una donna. Io ero l'erede dell'uomo amato, fatalmente disceso dai lombi di lui, dal suo grembo, solo per caso. Aprì il secondo astuccio. Su un velluto bianchissimo era posata una grossa ametista viola a taglio esagonale con una catenella d'oro finemente lavorata, al cui confronto la pietra sembrava troppo importante, prepotente quasi. Pareva che invece di essere lei appesa alla catenella, se ne fosse impadronita e la costringesse alla sua compagnia. Una schiava debole, devota. «Per la tua sposa», disse mia madre. «Portagliela oggi». Baciai la mano di mia madre e misi anche quest'astuccio nella tasca. In quel momento il nostro domestico annunciò una visita. Mio suocero e Elisabeth. «Nel salone», ordinò mia madre. «Lo specchio». Jacques le portò lo specchietto ovale. Si guardò il viso per un bel po', senza fare un gesto. «Sì. Le donne del suo tempo non avevano ancora bisogno di aggiustarsi con belletto, cipria, pettini o anche semplicemente con le sole dita, vestito, viso, capelli. Era come se mia madre comandasse disciplina e distinzione ai capelli, alla faccia, al vestito, soltanto con lo sguardo col quale ora esaminava la sua immagine riflessa. Senza che avesse mosso una mano, sparì d'un tratto qualsiasi familiarità, intimità. E io stesso mi sentii pressappoco come un ospite in casa di una vecchia signora sconosciuta. «Vieni», disse, «dammi il bastone». Il bastone, d'ebano sottile con il pomo d'argento, era appoggiato alla sedia. Non le serviva come sostegno, ma come insegna della sua dignità. Mio suocero in finanziera, più armato che provvisto di guanti. Elisabeth in abito grigio argento molto accollato, una croce di diamanti sul petto, più alta del solito e pallida come il fermaglio d'argento opaco sul suo fianco sinistro, stavano tutti e due in piedi, diritti, irrigiditi quasi, quando noi entrammo. Il suocero s'inchinò. Elisabeth accennò una mezza riverenza. Io la baciai tranquillamente. La guerra mi dispensava da ogni superfluo obbligo di natura cerimoniale. «Perdoni l'invadenza», disse mio suocero. «È una visita gradita», corresse mia madre. Nel frattempo guardava Elisabeth. «In un paio di settimane sarei stato di nuovo a casa», scherzò mio suocero. Mia madre sedeva eretta, come dentro una corazza, su una smilza dura sedia rococò. «Le persone», disse, «sanno qualche volta quando partono, non sanno mai quando ritornano». E guardava nel frattempo Elisabeth. Fece portare nel salone caffè, liquori e cognac. Non accennò un istante a un sorriso. A un certo punto fissò lo sguardo sulla tasca della mia giacca, dove custodivo l'astuccio con l'ametista. Capii. Senza far parola, misi la catenina al collo di Elisabeth. La pietra pendeva sopra la croce. Elisabeth sorrise, si avvicinò allo specchio e mia madre le fece un cenno di approvazione con la testa. Elisabeth si tolse la croce. L'ametista mandava violenti bagliori violetti sul vestito grigio argento. Ricordava sangue gelato su un terreno ghiacciato. Io distolsi lo sguardo. Ci alzammo. La mamma abbracciò Elisabeth senza baciarla. «Tu vai con i signori», mi ordinò. «Vieni stasera», aggiunse. «Voglio sapere l'ora delle nozze. C'è la tinca in bianco». Fece un cenno con la mano come le regine fanno col ventaglio e sparì. Thank you.